amata, la mia diletta è sola, e con la bella testa abbandonata, posa tra le lenzuola, serenata vola, serenata vola, splende pura la luna, là nel silenzio stende, e dietro i peli dell'alcova bruna, la rapada s'accende. Pura la luna splende, vola serenata, vola serenata, vola. Vola, o serenata, la mia diletta è sola, ma sorridendo ancor mezza sonnata, torna fra le lenzuola, o serenata vola, o serenata vola, l'onda sogna sul il vento sulla fronda, e a baci miei vi cusa la coronnido, la mia signora bionda. Sogna sul lido l'onda, sogna sul lido l'onda, vola serena. Oh.